il Tarabai alle finì, e i montanari gli han vengiù, e di soldati del por viperio, chi le mea mort, el se scondu. Però adesso, bel drizz, in mezzo al piazzal, rua via il vescov, con la faccia de mat, e il gaiman una lancia, che le fosforescenta, e il gaioc russ, come qui den rat. Poveri illusi, stolti mandriani, cosa pensate di poter fare? Io sono colui che detiene il potere, non mi potete neanche toccare. Neppure tu, con il fulmine in petto, qualunque Dio ti abbia mandato, mi puoi toccare con quella tua spada o con qualunque altro oggetto fatato. Mi fate pena, bestie mortali, per questo misero tentativo. Avete ammazzato un po' di soldati, ma il vostro bersaglio resterà vivo, vivo, potente e più forte di prima, pronto a spazzarvi come foglie seccate. La scopa del mio padrone supremo vi distruggerà, o anime spacciate. Ma rua un caval che fa mea frecas, consura un nom dalla faccia segada, el vescov e il credmen ai soec. Per lui l'era mei se il vedeva un'armada. Tu no, non può essere vero. Tu eri lontano con la ciurma dannata. Tu non puoi affrontarmi così. Tu sei Slav, Slav il pirata. Io ti ho permesso di essere tale. Io ti ho dato una vita potente. Se tu mi affronti, finiamo ambedue. Se tu mi affronti, non resterà niente. Sarà la buca, vescov dell'inferno, che capitan Slav le giamo mort, quanto il padron de sto caval e il gametu denanz la sort. Mesun el bertu de nes, l'om della dona in mezzo ai fiam, quel che sei riprema che te et fa de tut per cambiam. Ma des te cupi con tel nom de chi che sun e de chi che seri, dopo che per colpa tua ho fa dell'a con cimiteri. Crepa Tabarius con questa mia spada, che per trop temp la fa d'uma guai. Sun scia de te, cara Maria, to mai scancelà, te perderò mai. Bertul se scaglia sul vescov che vosa, e la sua spada la seguita colpì, colpì, colpì. Ma la lancia bastarda che sbusa la carne e per il momento el specia un attimo morì. Tu ci varde nel vescov a toc e il Bertu in genoc con la lancia in del ventro. El varde il Toni e par quasi content che anche per lui la morte la fa centro. Bertu el ved la sua Maria, le bellissima e la rit. Butta via la spada, Bertu, che adesso temeni in un bel sito.